Mojo? Yeah, stand by. Quando fa il demo andava a pagare qua. La mattina ti stavo chiamando, non ho visto la chiamata, boh. Ti stavo chiamando per dirti una cosa. Gargamella. Gargamella, gorgo miau. Sai cos'è? Che c'avevo il telefono in carica, c'avevo il telefono in carica, ero giù col cane io, capito? Probabilmente mi ha chiamato quando non c'ero a casa. Verso le 10 io sono, verso le 10 meno un quarto, le 10 là. Cosa fai allora? Allora, il telefono era in carica, perché ieri notte sono stato sino a tardi al telefono e l'ho scaricato, capito? Ho capito. Luca! Ando! Allora! Ehi, freddo, c'è freddino, freschetto! Basta coprirsi, il freddo si può risolvere, è un gaso che non si può risolvere. Ma che succede? Il caldo non te lo levi da addosso, quello c'è il freddo. Ma il freddo si copre. E io adesso riprendo la parete. Ma forse mi deve scrivere il parente. Non so. Tu si sente tutto, abbassa il microfono, si sente quello che sta dicendo con la signora che c'è dietro. TikTok, dai, sto ascoltando. Si sente ancora? Ho sentito che devo andare in palestra, tutto questo di addosso. Vabbè, non è nulla, sono in diretta, insomma, non ti preoccupare, non c'è niente di, non c'è fly, cioè non mica, stavo parlando tra di loro, mica sono io lì. Ma non pensavo che fosse la tua compagna che si è parlato. No, infatti qua è stata un malacchino. Vabbè. Come sto andando? Così c'è la via stazionaria. Cazzo. Però ho notato una cosa, nei canali questi c'è nei canali bassi, sai, con i canali alti, tipo 45 ce l'ha uno e uno, ad agganciato. Se no poco si muove, se sgancio. Perché vuole regolare? Vuole regolata la molla, si stringe, si allarga, fa centrobanda, eccetera. Vuole regolata la molla. La molla è tirata un bambi già, di più non usare. Magari vuole abbassare. La bassi salgono. E allora c'è qualche altra cosa. C'è qualche altra cosa che non va. Perché io per dire ce l'ho uno, le stazionarie, uno da uno non si muove. E vabbè, già questa antenna ha i suoi anni, sì, l'ha rimessa tutta a posto Fabrizio, ma. Adesso. La cucca la sciugia non mi interessa, è perfetta, non è che. Lui. Ma dove? Non c'è per bella. Poi, se si rompe, non lo so ma cosa ne rimetto, chi lo sa. Stavo pensando di. Questa che hai preso tu buona. Non si comprende una parola, oltre al radio a farti qua. Danni. La Lem sta dicendo. Chi è? Non ho capito chi è. E la Prenatoia, la Super Lem. Se la mia è come la Mantova, come è presente la Mantova 1. E come solo che c'è radiale anche più grandi quelli. Oh, va benissimo la mia. C'ha poche stazionarie e imbatti un bel, va bene. Mi hanno dato sempre segnali buoni. Ah, io l'ho sempre confidato la stessa, la verità. Con radiali così lunghi. Antenne che durano un sacco di anni. Quelle sono antenne che ci sono da un bel tempo, poi le hanno sempre perfezionate, però ci sono da tanto. Certo, sempre usate. Dove sei andato lui? Sono qua. Io penso che anche l'alluminio sia un bel grosso. Sì. E poi il pezzo della matova che si frasigava proprio dove attacca il piede è l'acciaio. Sì. Allora, la parte dove innesta il palo, quello è stato messo nuovo praticamente, perché quello precedente c'era tutto grazzicato, c'era spaccato proprio, non usciva, perché il palo non era zingato, ma era in ferro, si è tutto arrugginito, c'era spaccato tutto l'alluminio, faccio la parte bassa, è stata fatta tutta nuova già. Tutto il pezzo dove ci attacchi la, come si chiama? Dove ci metti il palo? Poi è stata ripulita tutta la, la corona dove metti il radiale, si chiama corona, è stato rimesso nuovo il coso, il bocchettone dove attacchi il cavo dell'antenna. E poi dove c'è l'avvolgimento del cavo lì, l'ha rimesso tutto a posto Fabrizio, è un cavo grosso, come si dice? Cavo grosso, e poi ha messo quel termo ossigente, come ti cazzo si chiama, e lo copre quello. Prima di farla te l'ha fatta anche a me l'antenna, Fabrizio, aveva fatto lo stesso lavoro, mi ha messo il cavo più grosso e quindi ci poteva mettere più vano di quello che poteva reggere prima. Poi gli ha cambiato il pezzo dove si abitava il PL, tutti i radiali, insomma l'ha lucidata tutta, l'ha portata in magazzino, l'ha fatta ritornare come fa le moto e la macchina ha fatto l'antenna. Vabbè, comunque anche io non entra sicuro sicuro. Poi sotto ho messo il bocchettone nuovo, l'ha siliconata bene, ha fatto un lavoro qua chiaramente. Doc l'ha recuperata, da. Ma se si rompe non la giusto più. O la cambio. Facciamo le metto una piccola, dato parlo solo con voi, che se ne frega. Io tre volte l'ho aiutata, poi la terza volta l'ho regalata perché non me la mette più. Tre volte gli ho cambiato il radiale, già l'abbiamo fatta anche insieme, lui non ti ricordo. Stai saturando! Ma chi? Chi è che sta saturando? Tu? Io sto saturando. E c'è un gurivato di apparecchio, boh. No, Luca sta saturando a bestia, si comprende un cazzo. Io saturando, ma sicuro c'è, aspetta. Guarda adesso, saturando sto. Microfono ce l'ho basso, ce l'ho cazzo. So, ce l'ho a due microfono. No, non è il microfono, no, è la roba che c'è sotto che sta saturando. È una sganciata adesso è buono. Sì, adesso sì, prima ci capiva un cazzo. Addirittura non si capiva, boh, vabbè, ma siamo vicini, perché è lontanata, già, e tu mi sentivi bene? Io sì. Sì, un cazzo, no, cosa stai da vicini? Ho provato a attenuarti a Santiago Cipre, se capisci un cazzo lo stesso. Boh, non lo so, non lo so, io non mi sembra lamentato nessuno, non lo so, vabbè. Ma con la radio si lamenta, pure come sembra agganciato, insomma l'avrebbe detto. Vedo quel che dici. Sono staccato. L'ho attaccato giusto per farlo andare un po', farlo scaldare. Adesso è a posto, va. Le due palle. No, non hai capito il problema. Quando attacca il pompa della radio. Cioè devo pompa la radio? Aumentare la radio, la modulazione, no? Quando pompi, la radio si affoga logicamente, quindi deve aumentarla. Vabbè, ma la radio, ho tolto il microfono, l'altra volta me l'ha fatto abbassare che mi ha tolto troppo alto, l'ho messo a 2. No, qui lo mettevo sempre così, guarda, a 5. Forse a 5 la radio. Però il 747 l'aumenta la radio, perché a me in macchina me l'aumentava, mi diceva che aumentava anche la radio. Aumentato la radio. Ma dai, io mi devo lasciare che andare a cucinare. Ci sentiamo. Ciao, tu vai a cucinare, vai. Roba buona si vede. E un po' di pasta. Vabbè, si passa con Luisa. Io avevo voglia di minestrone, mi sono fatto la minestra di verdure, ma ci ho messo tutto, vedi. Fagioli, fagiolini, di tutto e di più. Luca. Stavo bufando il naso, perché lo devo puntare a capo con questo naso. Madonna. Sono di ero guarito. Per carità, io. Da quando ammazza a fare la visita. Adesso devo fare questo cazzo di cortisone. Cazzo. Vabbè, io non posso avere tante cose, ma ho un respiro, io non respiravo. Mancanza d'altro. Andavo in uscita. Non ci avete più Adriano di là, no? Cosa? Adriano sto dicendo, se non ci avete, se abita ancora di là. Come? Ho detto se abita ancora di là. No, io già una lì. Ok. Guarda che se fa dura il telefono, come mangia. Ah, pensavo comandasse più il touch. cioè tu hai detto che siamo vicini, no, non siamo più vicini. No. Vabbè, ma segnale, sei un bel forte di segnale. Come? Che sei un bel forte di segnale. Cosa c'è che sono forte? Sono forte perché sono forte, mica perché siamo vicini. Vabbè. Diciamo Natalino, sì, giusto. Zona Natalino. Zona Padia Sicurezza, no, 2,50 m. Ehi, vabbè, siete vicini, dai, alla fine siamo vicini, siamo lontani lontani. Prima eravamo più vicini, quello sì. Ma arrivi, siamo arrivati a fondo scala. Se volete stare facendo un pezzo di filo, boh, già ne so. Non lo so, direttamente a Cai. Ma arrivano. Cosa ha già? Vabbè, arrivano, Adriano. Ma la casa tua sì, Adriano? Sì, è una casa nuova, insomma. Tu invece arrivi sempre uguale. C'è Santiago nuovo. Ma è una cosa normale per te. Sono sempre sentito così tanti anni, quindi no, non mi aspetto di chissà che cosa. Mentre invece quando pompi allora già arrivi bene. Allora già lui mi arriva sui più dei più 30. Ma siete di fronte, capito? Ce l'ha di fronte tu. Lo so. Allora può essere che il tifo lascio tipo 2-3 mesi fermo. Non anda, finché non scada, si riprende, va di radio, niente. Cosa può essere? Qualche condensatore è andato a fanculo. Condensatore da puttane, fai le riforme qui. Lascia acceso per una settimana senza usarlo. Acceso così a degenerarsi con il saturno. Molto vecchio, sì. Typhoon, ha suoi anni, tipo 4005 è tornato così, di quell'era lì. No, ma l'ho lasciato acceso, se io lo attacco adesso funziona, ma se rimane tipo 2 mesi fermo, 3 mesi, fa quel problema lì. Ti ricordi già non uscivo di radio, che mi dicevi, ma sei tu Luca che non stai uscendo? Sì, me lo ricordo. Invece a me mi ha fatto un altro difetto il gas, mi ha praticamente per una volta non si accendevano le prime cifre del frequenzimetro, poi come ha scaldato si è ripreso e non l'ha più fatto. Boh, diceva che il condensatore va a farsi benedire, adesso. Osaccio. E poi ho notato una cosa, cioè la radio funziona bene perché funziona bene, i segnali quelli forti tipo Franco, come arriva distorto mi arriva, è l'unico che arriva distorto qua, con l'apparecchio, gli altri no, tipo tu arrivi bene. E ho notato un'altra cosa, che prende splatter, invece questo 3009 supera nulla, zero, sì vabbè, due canali me li sblatti, 2 e 3, ma chi subisce un bel di splatter? Per capire quali sono i condensatori sono andati in sicurezza a puttana, per capire quali sono, tu prendi la sua capire, di cui l'ho per costretto, no? La accendi e dispulsi l'aria a causa. Al zone, te lo dividi al zone la scheda. Gli soffi aria a causa, quando vedi che il difetto sparisce, tu hai trovato la zona dove il cazzo è condensato decretato. Perché ne avevo cambiato uno, ma così, quello che c'è vicino ai finali, l'unico grosso era quello, ho messo uguale a quello lì, uguale identico, e niente, no, vabbè, se io sono accendo adesso va, ma che non va, e vabbè, alla fine, se te lo lì per lì mi fa bene i soldi, allora non è vecchia, abbastanza messa bene, non è, insomma, non è delle migliori, comunque. Adesso vediamo, ora magari me lo faccio in soldi, tanto sta lì buttato, 3009 no, non lo do, è uguale a quello che sta riparando di Natalino, uguale identico, questa l'ho presa a seconda mano da un tipo su un gruppo, su Facebook, non mi ricordo dove l'avevo preso, cazzo dalle foto sembrava nuovo, dice ma è nuovo, ma sì è nuovo, cazzo era tutto graffiato, la mascherina era un po' così messa male, tipo meglio lo stesso, grazie a Gianni è tornato nuovo. Comunque quando c'hai tempo tu prendi, fagli quel giochetto la sua capite, glielo subito come sa pure che rompe le palle. Quello è il metodo, è quello che si usa. Ma quando va con la radio dici, ma secondo te sono condensatori grandi o piccoli? Tutti i cosi, dietro lì, nel turistico di 5 anni. Dopo 5 anni, se funziona, è già un miracolo. Qua stiamo parlando di un apparecchio che ha decenni sulle spalle. Questo è forse anche di più. Infatti decenni, ma decenni a vero, per un 30 anni. Sarà degli anni 90, 80, 90. Magari vogliono cambiati tutti lì. Boh, io l'ho cambiato quello grosso. Lo pareva un po' strano la verità, però nulla, no, non ha risolto il problema. E vabbè, comunque. Certo, perché la radio è buona, c'è il dissipatore, invece il televisore non è il dissipatore, è un monofinale. Poi c'è quello là, aveva due dissipatori, ha due finali, tre finali, non so, vabbè. Mi piace l'attacco, aspetta. Tanto non penso che cambia la differenza di modulazione, è uguale. Penso, ho un orecchio tuo già, ascoltati questa, adesso aggancio l'altra. Quindi Adriano è ripreso? Beh Gianni, che si combina? Fra poco a queste parti sta arrivando una roba di farina, la faccia. E qua... Dove l'avete presa? Da Ziz? Aspetta, è senza cantare vittoria. Per adesso ancora devo aprire il negozio. Devo ancora aprire il forno, la buio, la mia ristretti. Perché non la prendete al corso da... Da Renato, come si chiama, quello che c'è al corso, quella traversa. Perché ancora stiamo facendo i buchi. Se la fanno, ma comunque è prevista una bella stiglia di farina. Metà con le cipolle, metà stessa. A lì come gli piace Gianni la farina, come gli piace? A lì, con le cipolle. Io la mangio solo con le cipolle, l'altra non mi si va. Ma farina con le cipolle. Che era qualche problemino, sì. Guarda un po', questo è il Typhoon, 1, 2, 3, prova. La cassa tua, cazzo, mi ha imbarrato la rete. C'ha più acuti, più forte. Ah, più acuti c'ha già. Sì, molto più presente questa qua. Vabbè, la presa seguiva un po', dai. Sì. Meno male sì, ma questa qua rimane più squillante. Qua posso escludere il bip. Ma io ne uno che altro che cosa, che 3009. Cioè, quello lì hanno l'attacco è una bomba. Ma il Magnum? Yeah. Lo so, vabbè. Ma a me va bene il 3009, guarda, non prendo alcun colpi. Tu pensa che c'è gente al 12, lo risento, comunque lo risento, pensa al 12. C'è Tino al 12, comunque qua lo sento, infatti ho dovuto attenuare un po', perché quando parla di io non lo stavo portando dietro. Non so perché prende il colpi, non ho capito il perché. Io non sento nessuno. Vabbè, ma al 3009 non sento niente, te lo sto dicendo. È capace che se attacco il Magnum magari li sento, non è che... Però qua col Galassi non li sento. Lo so. L'orecchio selettivo... L'altro giorno sono andato in FM, guarda, una telefonata in FM. Io non so perché noi ci mettiamo sempre in AM. Quando c'è l'FM che va molto meglio. Lo so. Tu cosa dici Adriano? Uguale all'altra o no? È diversa. Adriano è meglio di lui. Lui più o meno è lo stesso, questa c'ha, è un po' più acuta come il radio, però anche l'altra è molto forte. Vabbè, lo faccio andare un po'. Però qua lo Smith è regolato dal trimerino, ma non sale più di 9. E le Smith di quegli apparecchi sono tutti così, sono tutti regolati così, anche il mio era secco. E poi già stasera cosa accenni? Sempre un po' di bizzetti da politica, ogni tanto me le prendo. Boh, non lo so, mi sono fatto il minestrone e ne ho fatto per un reggimento, me l'ho mangiato ieri a cena e oggi a pranzo, ma mi è piaciuto, ne ho fatto troppo. Ne ho fatto troppo, quindi ho dovuto mangiare a pranzo. Adesso non so stasera che cosa mangio, se mi prendo una pizza. Ma tu già stavo mangiando i booster. Ma sai come li fanno i booster? Cazzo, poi. Un po' di donna, un po' di apri. Oh, già non prendo proprio più, se la porto adesso li sto mangiando, cioè spesso e volentieri, no, comunque li sto mangiando, con le cipolle. E anche io li faccio così, e poi con ketchup sopra. Esatto, ma faccio la salsa rosa. Ma io ci metto ketchup, mi piace di più. La salsa rosa non è altro che maionese e ketchup, non è, sono mischiati. Lo so già, lo so. Io me ne ho fatti quando? Avanti di notte me ne ho fatti, in queste con le cipolle. E ho fatto una lattina di birra e ci sono fare a di me. Sì, sì, sì, no, mi la sto bevendo io. Questi c'è una mal di testa forte. Ui. Questi mal di testa allucinanti, va. Allucinanti. Sarebbe più un bello se la bevi gratamente per andare a avere mal di testa. Immagino. Vabbè. Non lo so, ma cosa esco domani? Cioè domani esco, ma se bevo. A rischio mi adesso. Basta un bicchiere di birra, ti viene la patente. Ma io già sono in casa, quando bevo sono in casa. Una lattina di birra, ma ogni tanto, mi non è che io non so di chi ci ce li ho, perché era in offerta e me ne ho preso un po', di quella hanno filtrato. Ah, ma la Ricnusa? No, no, è tedesca. A me piace sempre quella birra, tu ci credi, la Brau, quella Beth Brau dello Spini, quella lattina verde. Sembra che sa birra a me. Colore è bello, è buona, è buona. Diciamo di ma ti fa la birra, è buona. Quella di Ricnusa, guarda, mi credi. Io l'ho pagata 75 centesimi la lattina grande. Me l'ho presa perché quando prendo la pizza me la faccio portare a casa, me la fanno pagare 3 euro la birra. Se la potete pagare sì. Intanto con 75 centesimi te ne bevo la lattina, e chi vi? Lo stesso quantitativo te lo fanno pagare 3 euro. A vi la vostra. Che mi mangiare, mi guadagna già, così funziona. Sono come te, tranquillo. Molte volte lo guardo l'euro, perché regalarlo a loro? Si può fare ogni tanto, ma non ogni buccia, se no poi può risparmiare. Adesso ti faccio un esempio, no? Un esempio. Allora, i circoli sono tutti uguali. Perché io vado in un circolo ai punti, cazzo mi fa pagare il cardinale 5 euro. Vado da un amico, mi fa pagare 3,50. Il circolo è uguale, cioè i circoli sono tutti uguali i circoli. Col karaoke, fai detto faccia pagare 4 euro, dove ci sta? Ma perché tu lo devi far pagare 5 euro? Puta domanda. Quella è un'amica mia, me lo sa. E chi? Quella che c'ha il circolo lì ai punti. E dove ai punti? Non lo so dove, però so che c'erano i punti, non so se ce ne c'erano tanti, Però è bassottina. È giovane, è giovane. E di Ussi. Lo so. Comunque l'ha fatto pagare 5 euro, cardinale. Come si chiama il circolo? Allora, aspetta. No, Ottava, no, li punti, Ottava. Li punti. Capito. Vabbè, se ognuno fa i pezzi che vuole, capito? È quello che c'è di brutto, che possono spaziare come vogliono, invece se ci fossero dei prezzi fissi per la roba, ognuno si regolerebbe. Sì, così è vero. A me mi hanno parlato bene di quello che c'è la tè dolce, mi hanno detto che si mangia bene, coso. Alessio me lo stava dicendo. E mangia bene, paga 10 euro, mangia, beve, eccetera. Io già non ci sono mai andato nei circoli, non so manco come ci sono fatti. Da Cristian, sì, 10 euro paghi da mangiare, poi bevi, ne spendi 15, 20. Vabbè, ma già si può fare. Vabbè, io vado, invece che andare al circolo, vado al Black Store, canto e in più cioè, mangio la pizza oppure mi mangio un piatto composto. Piatti composti costano 18 euro, ci sono calamari, ma in abbondanza, patatine e verdura. Con 18 euro poi vabbè prendi la birra, prendi il caffè, il dolce, cose, sempre che anche cos'è più la barra. Sì, tra le parole di 630 euro. C'è anche gente molto brava che canta, lo so, lo so. Ma è gente che quella lì ha fatto le scuola di canto, hanno fatto quella canzone, adesso sì, adesso no, era bravissima quella ragazza, ma sembrava la cantante originale. Sì, ce ne sono brave a voglia. Ah, io mi ripeto, me la fu assai. Poi che ci canta il sassarese, ma qualche italiana la canto, non è che non la canto, ma... Già, pari così, cantare non è facile. Al massimo ragli. Io raglio. Non è facile cantare. Poi è a momenti, cazzo, io canto o di gola, o col diaframma. Se qua ti di gola fai due canzoni, sei buttito, ti si inceppa la gola. Ti inceppa. Già, se mi devi aspettare 5 minuti, forse anche 10, che do da mangiare a Dea. Così vado a prendermi le pizze. Io, Luca, ci sono canzoni che canto bene, canzoni che magari mi vengono bene, però già mi arrangio, canto da tutte le parti, quindi già va bene. È che fare il karaoke così all'aperto non mi piace, sì, però quando vado a casa di amici che hanno l'impianto, io ho un amico che c'ha, ripeto, c'ha mixer, c'ha le casse grandi, cantiamo, c'ha una villa grande, andiamo e cantiamo tutti quanti. E lì canto tranquillamente. In questura dovete cantare. Beh, dobbiamo fare a te, Natalia. No, ti sei ordinando. Brutto bagnaccio. Ma vuoi finire di rompere i coglioni, Natalia, fa 1, 2, 4, 3, 6, 4, eh? Vuoi che telefono a casa tua? Coglione! Arrivo subito, ciao Natalia, ripeto, arrivo subito. Ehi, ehi. Andà bene. Vabbè, poi fammi sapere se la stanno facendo, sai. Così me la compro anche io. Una teglia piccola è già grande lì. Regreggio, ma fai le faccende ne stanno. A me non mi hanno riposo, e poi sono aggiungendo la dormizia e ce ne andò a fanculo. Ma dove hai chiamato la taglia? Da chi su Guglione di Carlo Pira. Né il cellulare né il telefono normale mi rispondono. Uno è occupato e l'altro suona libero, ma non mi risponde ugualmente. Perché quando c'hanno le consegne al massimo non risponde, che fa così, anche come fa così. Molte volte io mi arrendo, anche le pizzette io prendo lì, sono ben buone. Sì, paghi su, già mi trovo un altro posto che me la porti la Fani e che mi risponda soprattutto. Non telefono più lì, assolutamente. Pensavo a farci un salto, andarci tu direttamente e via, e fai prima. Ah, posso prima, però io non posso camminare. Forse tu non hai capito che non posso camminare. C'è una gamba tutta gonfia e non posso camminare. Se noi era andato, non aveva bisogno di telefonarlo. Se telefono è perché c'ho bisogno, no? E la macchina rovinai, scusa. Sì, però non posso camminare. Cazzo. Ma mi hai detto che non c'avevi più problemi per andare lì. No, invece i problemi sono sopraggiunti. C'ho tutta la gamba gonfia adesso. Stavi già cantando vittoria. Vabbè. Se ti fanno questo intervento già ti passa. E boh, la di 15 deve andare a fare una sua visita, ma lo sicuro. Cazzo di aro. Da un IP dall'altro, cazzo, non ne posso più. A me non si dice. Già quello di a me ci deve arrivare a mille visite. Tra voi vi si aggiungono anche altre cose. Sì, quelle del diabete, se non ci riesco a farle, gli dico non ci sono riuscito e basta. Gli dico sì, ce la miglia in culo. Si ripiace così, se no ce la giamba. E poi c'è tempo fino a marzo, devo andare a marzo a fare la visita per il diabete. Se ci riesco a farle quelle che mi hai prescritto le faccio, altrimenti non le faccio e gli dico che non le ho potute fare perché non ho trovato posto. Già poi mi dice vado a pagamento, ma a pagamento ci va lì, che io soldi non ne ho. Sì, ma loro fanno in fretta, gli ci vai a pagamento, certo non sborsano. E infatti, ma io già ridico di così, per sicuri. Vabbè, un attimo. attimo di quell'X che devo fare una cosa. E adesso vado a farmi un giro col cane, dai, ci sentiamo. E se no questo qua deve andare, che ci lo sa bene. Ciao già. Ciao, ciao Adriano, ciao, ci sentiamo, ciao anche a Luca e Natalia. Ciao già, alla prossima. Ciao, ciao.